Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata il dibattito sull'accoglienza ai migranti, alcuni dei question time trattati nell'ultima seduta di consiglio, nuovi strumenti digitali per l'innovazione nelle imprese. Ma partiamo subito con le iniziative dedicate all'8 marzo. Per la Giornata Internazionale della Donna in Assemblea Legislativa, un convegno organizzato dal Garante Regionale dei Detenuti Roberto Cavalieri mette al centro la detenzione femminile per un confronto con chi opera direttamente sul campo, direttrici degli istituti penitenziari, educatrici e volontarie. Alle donne nelle carceri è anche dedicata una delle due mostre allestite nella sede di Viale Aldo Moro a Bologna. Domani Faccio la Brava presenta le foto del reporter ravennate Giampiero Corelli, scattate in 13 istituti penitenziari femminili italiani. Sentiamo la Presidente dell'Assemblea, Emma Petitti. Il messaggio è molto chiaro, è rieducare per reintegrare le persone detenute dopo aver affrontato la pena e nella nostra società. E allora bisogna conoscere la vita nei carceri, bisogna lavorare assieme. Proprio per far sì che le istituzioni, il garante e il lavoro che viene portato avanti sia un lavoro di forte integrazione. E sempre in tema 8 marzo, in assemblea, è in programma un incontro in commissione parità della conferenza delle elette, formata dalle consigliere e dall'assessore dei comuni dell'Emilia Romagna. Un'occasione per fare il punto sui progetti e iniziative regionali per promuovere le pari opportunità. Cambiamo argomento. Un minuto di silenzio per le vittime del naufragio in Calabria ha anticipato la comunicazione della Giunta sull'accoglienza dei migranti in Emilia-Romagna e i recenti sbarchi nel porto di Ravenna. Nel capoluogo romagnolo, su indicazione del governo, sono sbarcate in tutto 197 persone, raccolte in mare dalla nave della ONG SOS Mediterranee. Attualmente i migranti accolti in regione sono oltre 10.300, di cui 1.000 minori non accompagnati. Si tratta del 10% dei migranti ospitati complessivamente nel nostro paese. Ci sono poi profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, 26.000, e per la stragrande maggioranza sono donne e bambini. Non abbiamo un piano sulla gestione delle accoglienze anche rispetto alla distribuzione del territorio nazionale dei migranti, ha osservato il presidente della regione Bonaccini. Servono poi politiche serie sui flussi per contrastare le tratte illegali, aprendo però contemporaneamente corridoi umanitari. Sul punto, Pasquale Gerace del Partito Democratico ha sottolineato la necessità di governare il fenomeno dell'immigrazione senza basarsi su provvedimenti transitori. Ancora una volta l'Emilia-Romagna ha dato prova di grande compattezza con le sue istituzioni, che si sono messe tutte a disposizione per accogliere queste persone che arrivano da mondi sicuramente dove c'è guerra, dove c'è fame e da dove scappano per trovare un porto sicuro che l'Emilia-Romagna ha saputo garantire nonostante tutto. Critiche da Emilia-Romagna coraggiosa alla gestione degli sbarchi voluta dal governo. I dati presentati ci confermano che l'Emilia Romagna è una terra di accoglienza da sempre e che continuerà ad esserlo, anche quando in questo momento il governo presuppone che le ONG si trasformino in taxi del mare, spostando dal canale di Sicilia fino a Ravenna o in alcuni casi anche fino alla Spezia le persone che sono state recuperate, aggravando la loro condizione, diciamo così, di trasporto. Per Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d'Italia l'accoglienza è un dovere, non è un atto di eroismo. Pertanto la regione non ha fatto altro che temperare alle indicazioni del governo. Tutto questo deve essere contemperato da quello che il centrodestra ha sempre voluto e ha sempre inteso fare, cioè di stare a fianco della magistratura e a fianco delle forze dell'ordine per dare il massimo contrasto allo sfruttamento dell'immigrazione. Secondo il capogruppo leghista Matteo Rancan, la maggioranza in regione usa strumentalmente il tema dell'immigrazione per fare scaricabarile sul governo. Voglio ricordare che con le politiche che sta facendo il governo, 21.000 sbarchi sono stati preventivamente fermati, grazie ad accordi con i paesi di partenza. Noi dobbiamo sicuramente mettere in sicurezza le persone, evitando che queste possano e debbano partire dal loro paese di origine. Noi siamo a disposizione per accogliere e integrare davvero le persone che scappano dalle guerre, non possiamo però permetterci di accogliere tutti quanti. Al termine del dibattito, l'Assemblea Legislativa ha approvato a maggioranza una risoluzione che chiede tra l'altro al Governo di superare la modalità emergenziale sugli sbarchi e che vengano aperti canali legittimi e programmati di arrivo nel nostro Paese. E veniamo a ad alcuni dei question time presentati nell'ultima seduta di Consiglio. Due distinte interrogazioni presentate rispettivamente da Francesca Marchetti del Partito Democratico e da Valentina Castaldini di Forza Italia hanno chiesto, con diverse considerazioni, le motivazioni del ricorso della Regione Emilia-Romagna alla Corte Costituzionale per il dimensionamento scolastico. L'assessora Paola Salomoni ha risposto che l'obiettivo dello Stato non può essere la riduzione delle istituzioni scolastiche, giustificata dal calo demografico, può esserlo piuttosto l'efficientamento. Inoltre, ha sottolineato, non c'è stato il coinvolgimento delle regioni su una materia concorrente. Sentiamo il commento di Valentina Castaldini. Ho chiesto le profonde motivazioni che hanno spinto a questa decisione, perché credo che in realtà proprio in mano alla Regione Emilia-Romagna ci sia uno strumento importantissimo. Non c'è un taglio delle classi, non c'è un rischio per le scuole in montagna, ad esempio, come è sempre stato detto, ma c'è la possibilità di riorganizzare e di non fare tagli, ma di rendere più incisiva la didattica. Il caso della sospensione di 4 agenti della Polizia Municipale di Sassuolo, accusati di tortura nei confronti di un uomo di nazionalità marocchina, ricoverato in ospedale, è arrivato in aula con un question time di Giulia Pigoni della lista Bonaccini. Se le accuse dovessero essere confermate, si tratterebbe di un fatto molto grave, ha detto Pigoni, chiedendo alla Giunta di riferire su un aspetto che richiama le funzioni regionali sulla formazione al ruolo delle polizie locali, in particolare per quanto riguarda l'uso della forza e i suoi limiti in relazione ai principi sui diritti umani. Sentiamola. Il sottosegretario mi ha risposto ovviamente che si stanno compiendo molte azioni per formare la Polizia Municipale e quindi speriamo che sempre di più possa essere appunto utile perché i nostri agenti si rapportino nel migliore dei modi, come spesso avviene per un compito delicatissimo che è quello dell'ordine pubblico nei confronti della cittadinanza. Fa invece riferimento alla formazione in agricoltura un question time di Michele Facci ed Emiliano Occhi della Lega. Secondo i consiglieri, è necessario sostenere e accompagnare le aziende agricole verso un futuro sempre più ad alta tecnologia, non solo attraverso una politica di incentivi economici, ma soprattutto attraverso una capillare attività di formazione di personale specializzato. Sentiamo Occhi. Teniamo conto che in alcune zone i giovani agricoltori sono molto concentrati sul lavoro, quindi i bandi sia per la formazione ma anche per la concessione di contributi per la loro attività devono essere sempre più semplici e devono essere, secondo me, maggiormente pubblicizzati anche all'interno delle associazioni e anche della regione stessa. E adesso parliamo del progetto EROI, acronimo di Emilia Romagna Open Innovation. EROI è la piattaforma digitale della Regione Emilia Romagna dedicata all'innovazione, per connettere imprese, ricercatori, liberi professionisti che cercano e offrono idee e soluzioni e anche competenze. Ogni giorno ci sono più di 6.000 persone che si scambiano informazioni su EROI. I risultati ottenuti sono stati presentati in Commissione Politiche Economiche da Arter, la società consortile in-house della Regione Emilia-Romagna. Ecco il commento di Palma Costi del Partito Democratico. Si tratta di una piattaforma che mette in contatto coloro, quindi le persone che fanno innovazione. Noi siamo una terra che ha deciso di fare dell'innovazione, della conoscenza, del sapere il punto centrale per continuare uno sviluppo di qualità e di benessere. L'altro tema è che questa è una piattaforma che si apre anche al mondo. Per Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, questa piattaforma, EROI, si interseca bene anche con la nuova legge sui talenti. È una piattaforma che deve essere sempre di più in sinergia con le strategie che la Regione Emilia-Romagna vuole mettere in campo. È un dibattito che abbiamo fatto anche di recente con l'approvazione della legge sui talenti e questo è un ecosistema che ci consente di avere un occhio anche sulle prospettive future, quindi a maggior ragione penso che sia un contenitore di cui la Regione debba avvalersi proprio per orientare le proprie scelte politiche. Chiudiamo ricordando anche la seconda mostra allestita in assemblea in occasione dell'8 marzo. Il profumo dei fiori dipinti è un'esposizione collettiva curata da Sandro Malossini, aperta al pubblico fino al 10 marzo. In tutto, 29 opere che vanno dalla metà del Novecento fino ai giorni nostri. La mostra, ha sottolineato il vicepresidente Fabio Regnieri, vuole essere un omaggio dell'Assemblea Legislativa alle donne e un monito a difenderne e riaffermarne i diritti per la parità e l'uguaglianza. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati, seguiteci sui nostri profili social e sul sito assemblea.mr.it. Grazie per essere stati in ascolto. Assemblea On Air.